Oggi sono uscito di casa. Ho preso la macchina, ma visto che la strada è stretta e c'era il camion della spazzatura, la macchina non riusciva a passare. E allora mi sono messo fermo in macchina, ho preso il telefonino, ho guardato qualche messaggio. Di solito dopo pochi istanti la strada si libera e si riparte, si può andare via, ma questa volta dopo 2 o 3 minuti la strada era ancora bloccata. Le operatrici ecologiche erano 2 donne. Come al solito prendevano i cassonetti, li avvicinavano verso il camioncino e svuotavano la spazzatura. Ma dopo facevano anche altro, lasciavano ancora i cassonetti spostati e con scopa e paletta pulivano anche tutto intorno nel posto dove i cassonetti stanno di solito. È il loro lavoro, potremmo pensare, certo, però lo stavano facendo in un modo tutto particolare. Ci stavano mettendo una cura particolare. Quando finalmente il camioncino si è spostato, mi sono avvicinato con la macchina, ho tirato giù il finestrino e le ho ringraziate. Grazie per quello che avete fatto e per come l'avete fatto. Era da tanto che c'era quello sporco residuo. Grazie davvero. In pochi istanti il loro sguardo è passato dall'interrogativo a un grande sorriso. Grazie è una parola potente e ce ne rendiamo conto quando ad esempio noi facciamo la stessa cosa per tanto tempo, magari in famiglia, e pensiamo in fondo non sto chiedendo molto, ma almeno un grazie. Un grazie, un semplice grazie, credo che a volte abbia il potere di cambiare la giornata, come quando finalmente quel tuo familiare si accorge di quello che fai e ti dice grazie. E così ho pensato a tutti quelli che fanno tanti lavori, ingrati, per lo più inosservati, ma così utili per tutti quanti. Il panettiere, l'infermiere, quello che apre l'edicola tutte le mattine alle 4, quelli che puliscono le corsie degli ospedali o i bagni nelle scuole. Forse basterebbe un grazie disinteressato per cambiare la giornata a queste persone. Forse basterebbe un grazie per dare colore a una giornata grigia.